vieni qui da noi, sono tutti eroi della città di Glità. Lavoriamo insieme, ci vogliamo bene, è la città di Glità. UB, Wayne, Crinkle, Kip e Friends saranno lì con te. Sono pronti ad imparare tutto quello che c'è. Che città speciale, posto ideale per incontrare gli eroi. Quanti bei momenti, tutti divertenti nella città di Glità. È una vera scuola dove il tempo vola, è la città di Glità. Sono pronta a preparare tutto quello che c'è. Che città speciale, posto ideale per incontrare gli eroi. Quanti bei momenti, tutti divertenti nella città di Glità. È una vera scuola dove il tempo vola, è la città di Glità. È la città di Glità.